Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. È quasi banale osservare che ogni amministratore pubblico, sindaco, assessore, che abbia intenzione di avviare nella propria città la partita delle Smart City, si trovi subito davanti. Da un lato un elenco sconfinato di possibilità offerte oggi dalla tecnologia e fortemente sponsorizzate dalle aziende che queste tecnologie le producono oppure le installano, e dall'altro alla necessità di concentrare gli sforzi su un numero invece limitato di azioni in modo da riuscire a ottenere risultati concreti, rilevanti. Scegliere su cosa puntare è una delle sfide più difficili e anche delle più scivolose, e le modalità, i modelli, insomma, messi in campo per arrivare a mettere a fuoco i propri obiettivi ideali, diciamo così, sono diversi. Federico Bedrocchi ce ne racconta uno, quello scelto a Cosenza, che ha elementi di originalità rispetto alla strada scelta da molte altre città italiane. Sentite. Assessore De Rose, buonasera. Buonasera a lei, ascoltatori. Allora, voi lì a Cosenza avete introdotto alcune procedure che non sono così consuete nelle progettazioni Smart City, e cioè avete messo in moto un meccanismo che ha dato un grosso valore, un grosso significato a leggere quello che diverse componenti della cittadinanza poteva esprimere come esigenza rispetto alle Smart City. Quindi cosa avete fatto? Dei tavoli con le varie professioni, per esempio? Sì, abbiamo, piuttosto che partire da un'opzione tecnologica o comunque da una scelta legata all'introduzione di particolari dispositivi tecnologici all'interno della città, abbiamo pensato di fare il passaggio opposto, cioè quello di partire da una capacità di interpretazione e di lettura dei bisogni dei cittadini. Come abbiamo fatto? Innanzitutto attraverso la creazione dei tavoli di partenariato permanente con gli ordini professionali, dei tavoli di consultazione, dove noi di fatto ciclicamente incontriamo gli ordini professionali per capire dalla loro voce quali esigenze concrete sono nelle condizioni di sviluppare e di svolgere a vantaggio della cittadinanza. Ma quindi permanenti, cioè voi, per esempio, gli avvocati anche? Anche gli avvocati, i commercialisti, i geometri, gli ingegneri, tutto. Perché riteniamo che la sfida delle Smart City sia talmente trasversale da chiamare in causa non solo i cittadini in quanto tali, ma soprattutto anche le professioni. Allora è venuto fuori, ad esempio, dai tavoli di partenariato e di consultazione con le professioni, una grossa attenzione verso i problemi della geotermia e verso i problemi della bioedilizia, che, come lei immagina, sono diciamo tecnologie legate al concetto di sostenibilità. Va bene, ma immagino che questa esigenza, per esempio, di interventi di tipo geotermico non sono venute fuori dagli avvocati, no? O dai commercialisti. Assolutamente no, infatti è stato l'ordine dei geologi e in particolare l'ordine degli agronomi, unitamente agli architetti e agli ingegneri, a dare le risposte più coerenti, diciamo, rispetto al discorso. Ma devo dire che anche gli stessi avvocati o gli stessi commercialisti dinanzi al problema sono riservati la possibilità di studiare al loro interno delle possibili soluzioni, tutta la questione legata al diritto ambientale, ad esempio, o alla tutela dei diritti ambientali, che ha interessato non poco gli avvocati, e riusciranno, immagino a breve, a fornirci anche delle proposte progettuali in questo senso. So che voi avete anche e state facendo un lavoro nei confronti delle tante associazioni, quindi delle tante comunità nelle quali si organizza oggi una popolazione per esprimere un po' una propria esigenza. Lì, per esempio, al di là di quelli strettamente tecnologici che magari si interessano ad informatica, che cosa avete incontrato? Ma ad esempio, guardi, una testimonianza di impegno diretto del cittadino, per cui un cittadino munito di smartphone o di tablet che per strada identifica una condizione di degrado, che so, una semplice buca piuttosto che soprattutto una discarica abusiva, fa una foto e la invia ad un nostro server, noi ci facciamo carico entro un certo numero di giorni del problema e cerchiamo di dare loro una risposta. Ecco, per esempio, questo è un punto delicato, De Rose, perché la ricezione delle lamentele da parte dei cittadini è qualcosa che anche in altre realtà è stata messa in funzione, però qual è il problema? Che o al centro, nell'amministrazione, c'è un collettivo, un gruppo, un team che ha un focus su questa attività qui di ricezione dei problemi e di loro soluzione, oppure quello che succede è che lì viene fuori un bel collo di bottiglia e arrivano milioni di lamentele e non succede più niente. Voi avete pensato a questo aspetto? Avete messo in moto una commissione particolare? Ovviamente sì, perché come lei giustamente e correttamente sottolineava, il rischio di queste è diciamo una, come si dice, un'arma a doppio taglio, perché se poi lei non garantisce la risposta nei tempi che si assume in una ipotetica carta dei servizi del cittadino, ovviamente questo ha un effetto negativo, un soprattutto disastro rispetto a noi e soprattutto rispetto ai cittadini. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo collegato questo server all'ufficio manutenzione, per cui l'ufficio manutenzione del comune si fa carico anche di comunicare in una logica di pianificazione strategica degli interventi entro quali tempi siamo in grado di dare una risposta. Se ci si trova dinanzi a questioni che viceversa impongono interventi strutturali, lo si fa presente. In altri termini, noi spostiamo l'enfasi dalla questione tecnologica alla capacità di creare dei momenti di consumo consapevole di soluzioni intelligenti, di soluzioni da smart city, però cercando di coinvolgere la cittadinanza, perché altrimenti restano tecnologie che la città subisce, che il cittadino subisce, che non apprezza e che fa hanno felici soltanto magari i provider di queste soluzioni tecnologiche che sono ovviamente sempre presenti nei nostri uffici a proporci soluzioni miracolistiche che sono molto belle dal punto di vista tecnologico, ma che capitano in un momento in cui la crisi finanziaria della finanza pubblica e soprattutto il fatto che non esista una maturità tecnologica oggettiva in molti settori della cittadinanza, insomma, sono certo fiori all'occhiello, ma buoni soltanto per fare bella figura nei salotti o nei, diciamo, nei talk show televisivi. Torniamo in studio, ma solo per salutarci e darci appuntamento a domani. Buona serata.